se questa radio ha migliorato. Vediamo un pochino se questo microfono sono riuscito a metterlo meglio. Adesso come radio è più chiara, molto ma molto più chiara, toni alti. Recuaro, va bene quindi? Sì, sì, va bene. Ma è amplificato almeno, sì? Sì, sì, è certo che è amplificato. Va bene, dai, allora lascio questo microfono qua. Antonio, ha migliorato, più forte, com'è? Antonio! Ma questo drammatico del girello, una bomba, si sente benissimo, si sente. Vieni Gabriele, vieni. Aspetta un attimo. No, a me no. A lui piace girare, farà a casa, capito? Sì, una bomba, Va bene, va bene. No, vabbè, questa è un'altra radio. Un'altra radio, dai. Questo è Antonio, è il mio quello solito, il K. No, sento benissimo. Va bene ragazzi, dai, io mi devo entrare alla radio perché devo accompagnare a Gabriele, mio figlio, a fare palestra, quindi devo mollare, ci sentiamo più tardi, dai. Ci sentiamo. Gabriele, pure mio figlio si chiama Gabriele. Lo so, figurati, solo che il mio ha quasi 18 anni. Allora, va bene, ci sentiamo più tardi. Cioè, il mio ne ha uno. No, io ne ho due, l'altro si chiama Nicolas. No, il mio ha un anno. Pensavo, vabbè, già lo so. Va bene, dai, più tardi. Ciao Antonio, ci sentiamo dopo. E io d'accordo, dopo da. Non c'è problema. Ciao, ci sentiamo qui. Vabbè, la verità, vabbè che io ho una posizione pure ben buona, perché sono un alto a quel palazzo, quindi magari arrivi molto forte, mi arrivi a me. Ehi, la volta che mi hai detto che arrivo un bel forte, cazzo, ma te l'hai fatto il capo condomino, cazzo, figurati tu. Oltre a staccare l'antenna da lì, e piazzarmela, cioè staccare una e piazzare l'altra. Capito? Il discorso è quello, ma la male me l'ho staccata da solo. La mantova, ho tolto la mantova e ci ho messo quella lì, la Mercury, quindi figurati tu, da solo come un cane. Avevo chiamato Giuseppe non c'è venuto, mi sono capito, eccetera, quindi mi schiando. Hai capito? Quindi salire sopra un tetto non è che sia così facile di qui dove abito io. Sono in alto e c'è sempre il vento, il discorso è quello. Ancora è. Io. Mi devi scusare, ma avevo l'attenatore inserito, tu stai arrivando 9.20, radio Super 5. Antonio è molto più forte di te, però sta arrivando 9.20. Ho capito. Il problema è che quando ho staccato la mantova mi sono trovato il palo che era rugginoso, che ho passato per lavorare come si chiama la forbice, quindi adesso bisogna che ripasso la mola abrasiva, ripasso la mola con il disco abrasivo, dopodiché appena è pronta la mantova ci rimetto nuovo la mantova sopra, non so, adesso vediamo un po'. Dipende tutto da perché a me antenne pesanti non ho nessuna gana di piazzarne, siccome lo stilo della mantova mia è nuovo, la bobina altrettanto, eccetera. L'unica cosa devo passare appena nel carta abrasiva sotto dove c'è il, come si chiama, l'attacco dei radiali di sotto dove sono agganciate le viti, tutto l'interno è perfetto, non ricambia niente, il discorso è quello. L'antenna è nuova, la mia mantova è tutto, ma è nuova, il discorso è quello. adesso vedremo un pochettino cosa fare, anche perché devo decidere un po' la verità. Vedremo, ti faccio sapere qualcosa fino nel caso dovessi decidere di mettermi un'antenna più leggera, molto, ma quella tornata famosa, quella verde lunga 7 metri di stilo, 7 metri di radiali, tanto costa 99 euro, costa, non è che costa molto, non me ne fate nulla. E ti passo la mantova turbo, ti passo. Hai capito? No, io no, non ne voglio mettere niente così troppo pesanti, Antonio. No, voglio tenere antenne leggere sul tetto. E infatti quello che ti ho detto, non c'è la mantova turbo, c'è un assedio turbo, si chiama. Turbo è lunga 7 metri di stilo, 7 metri di radiale e leggera. Io non ho mai brigata, ho 60 anni, grazie a Dio, e non ho giocato mi pare da. Non ho voglia assolutamente di scendere dal tetto, quindi passerò l'antenna mia lì a Tino e se la salirà lui, non lo so, fa quello che vuoi, già lo sa Tino, l'ho già fatto una volta con la direttiva, quindi non so se l'abbia pensata lui o se l'abbia pensato qualcun altro, quello che, dato quella pesava più della mantova pesava, cazzo, te lo sto dicendo, era una cosa allucinante, era. Quindi l'ho regalata, è venuto, sarà caricata in macchina e poi ha fatto quello che doveva fare. A me di quello che poi ha fatto lui con l'antenna non mi ha fregato più niente, la verità. E sono fatto così. Tanto ma io ho quella qua, è leggerissima, più leggera anche è quella che c'è al Massasso di Vecchio, è questa che ho detto adesso, anche Gabriele, è leggerissima, era montata, molto leggera, con un palo senza tiranti, senza 4 metri in palo, e funziona benissimo. Ma bravo fa a truccarmi il gordo a piazza, no, adesso stanno vendendo queste antenne leggere, funzionano bene, non mi danno problemi, quindi, cazzo ci metto là, qua ci metto una mazza, una antenna pesante, no, a truccarti il gordo, la farati io, no, va bene quella che c'è, leggera, funziona bene e non me ne frega niente. Purtroppo la mazza vai così, pesa 3 kg, più ci mette il palo, a meno che non ci metti il palo telescopico, il discorso è quello, se ci metti il palo telescopico la questione cambia, parti laggiù da terra e piano piano lo sali, poi ti posso dire, poi sei salito 8 metri, quello che lo sollevi 6 metri, li metti 3 tiranti e poi sei a posto, il discorso è quello. Invece, come sono io, palo d'acqua, il palo d'acqua pesa, poi c'è la mantova sopra, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto anche se la mantova è neanche 3 metri di altezza, ti viene male mia toglierla dove sono io, ma molto male, perché c'è un bel vento qua, capito? Il discorso è quello, io abito dove c'è un altro dove c'è un bel vento, ti becca il mestrale, ti becca lì il libeccio, ti becca lo scirocco, ti becca quello di stamattina, cazzo, il grecale, cazzo, se t'ha caduto là, mica si è portato cazzo di cose, il cassonese si è portato stamattina a me. Se tu vieni via Cano Felice, ti trovi tutti i cassonetti, cazzo, vicino a, come si chiama, alla fermata Veltola. Tu immagina se dovessi salire sopra il tetto, è stata una parabola, dove ti trovi, cazzo, no? Tanto è, come trovare un'antenna buona, che sia leggera, che sia anche senza radiare, che sia bella leggera, che te la piatti tranquillamente e non ti spaccherà la schiena e niente. Adesso le stanno vendendo, stanno sempre più uscendo questo tipo di antenne qua. Ci sono certe che non costano neanche tanto, costano poco e hanno molta resa, non hanno niente a che invidiare a quelle, al manto qualcosa, cioè può valere una testa, ma ti pare che devi pagarti la china a 60 anni, vai, antenna leggera, palo telescopico, funziona benissimo, vai e quindi là. Giallo, infatti le antenne quelle così grandi già sono rimaste soffette, ti sei notato. Ce n'è una inviata con gli Abruzzi, buttata, poi ce n'è un'altra da un'altra parte, quindi anzi più di una ce n'è, ma non trovo, ce ne sono parecchie, buttatemi la Sassari. Con gli Abruzzi mi sa che è stata tolta. Quindi, figurati tu. Vabbè, comunque sì, adesso vediamo un po'. Adesso cerco di chiedere quanto viene, cioè quando mi manderanno quella, faccio la richiesta, 99 euro, pesa neanche mezzo chilo, pesa lunga 7 metri di stilo, 7 metri, 4 radiali da 7 metri, insomma, è leggera, non pesa neanche uno, ma con chilo pesa, quindi figurati, prendo quella e va a culo, quando regge, regge, e dopodiché quando non regge più se la piglia in culo, ci mettono la gamba come ci faceva la volta, otto radiali, metà alluminio, metà vetrovesina, e dura 30 anni, si dura. Guarda, se vai a controllare, vabbè, lascia fare la riga, che è uscita un po' male, noi l'abbiamo modificata, quindi va bene, è l'unico che va bene poi, sono io con il modello vecchio, però, sul tetto, non c'ho l'altra gatta, ho giocato due tre ghiette era già, vabbè, non andava più bene, era già appena, però funzionava l'antenna. Ho messo questa qua che è più vecchia, anche se è un po' più fine e così, però funziona meglio. Ecco, però io preferisco ancora. Se avessi trovato un'antenna anche mezz'onda di quelle senza radiali, tipo quella che è adesso, senza radiali, senza niente, me ne ho fregato. A poco prezzo, che è bella funzionale, che non si praticheggia e nulla, mi avrei messo quella. Tanto per quello che c'è ultimamente, cosa ti vuole appigliare? Già ho capito. Quindi, vabbè. Adesso vedremo un pochettino. Io ce l'ho provvisore a quell'antenna, quindi a un certo punto adesso appena vediamo un po', sistemo la manto, ma vediamo un pochettino cosa c'è da fare, non lo so, non ho ancora deciso niente, quindi vediamo un po', se trovo un'antenna più leggera non mi sembra vero, quindi ormai ho 60 anni, quindi tu figurati, c'è un sacco di gente che sta facendo così, si sta staccando, hai visto? La gente che sta vendendo carte di antenne perché non ce la fa più, cazzo, a scendere giù a un certo punto, manco col traliccio, quindi non sono solamente io, no, che sono rincoglionito, cazzo, cioè rincoglionito, che sono messo male, cazzo, le braccia, uno avere 20 anni, l'altro avere, cazzo, 60, dopo 60, cazzo, non è la stessa cosa, cazzo, se tu prendi, cazzo, 20 kg di impatto di cemento, ti risali su, col cazzo ce la fai a salire, hai capito, il discorso è questo. Vabbè, si vedrà un pochettino, poi, vabbè, pazienza, si deciderà, non ti preoccupare, tanto. Ciao, sì, io ho appena da baverci, upi, che sono tante, sì, io appena ci vivo di cavolo, cioè, leggere pure. Antenne 50.000 genere. Ma non costa neanche tanto, non costa. C'è questa Echo Antenna, meno, vabbè, questa è dell'Echo Antenna. Marte, 71 euro. Ce ne sono, Sono intatto. Adesso vediamo un pochettino là. Cosa fare e cosa non fare. Lo sto dicendo, io ho visto con l'antenna, la tavola, ho detto no, quello è un cesso, eccetera, eccetera. Non può essere 7 metri di stilo, cazzo, leggerla così. Adesso vediamo un pochettino. Devo far chiamare la Giovanna, vediamo quanto ne vogliono, mi sembra che ne avevo uno o due, una cosa del genere mi sembra che ne avevo, secondo quanto ne vogliono me la ordino, appena arriva me la installo all'Azzurra, non è che ci voglia questo granché. Quindi, non è che vuole. Il problema è la mantova, cazzo, è un casino, cazzo. Hai capito? La mantova pesa, cazzo. È una cosa allucinante. Non so, cioè, uno finché già è giovane, se ne stanno da sola, ma dopodiché sei morto, hai capito? Qui sta 55 euro, Sigma Venom, 5 ottavi, antenna al base per la CB senza radiali, questa è. Non serve a nulla quella che ce l'aveva Franco. Sì, ho tutto già. Buonasera a tutti. Quindi diamoci dentro. La mia ci vuole, quella che ho io. Non l'ho mai fatto da solo prima, quindi. È leggera e funziona bene. Va bene. No, questa è diversa da quella da Franco. Ma a me non ci aveva Franco. E non si via un tubo. Per quella è meglio la BA27L come quella che c'avevo io. Solo che cazzo, bisogna stare attenti a isolarla bene perché la mia mi entrava acqua nella bobina e quando era infusa si via una base stazionaria. Ce l'ha Marco Combo da un sacco di anni e funziona benissimo. E non pesa nulla neanche quella, c'ha solo tre radiali e poi c'è anche la versione senza radiali di quella. E poi c'è questo della Sirio, cioè Sirio GPV, c'è una lì, antenna base CV senza radiali, e chi c'è questa di più però? Antenna verticale, vabbè, questa è tutta la mia, dai. Senza radiali, però può essere buona, della Sirio, come quella, come una cosa. La Energy si chiama quell'antenna che sto dicendo io, c'è la buina alluminio. Funziona bene. Sì, hai ragione, dovrebbe essere più rilassato. No, questo della Silvia. La N, quella lì è della Midland, quella che dice il dottore. Quella è Sirio. Sì, c'è Sirio e c'è anche Midland. Quella che avevo io funzionava bene finché non pioveva. Quando pioveva si riempiva d'acqua. Ed era isolata bene, mi chissà da dove entrava. Allora, questo che sto dicendo io è Sirio News Tornado, si chiama. Della Cubicom Italia. Allora, Sirio 92 euro, 5 ottavi lambda, 27 mega, 27,30, ce n'è un pezzo, ce n'è solamente uno. Descrizione, allora, da 10-11 metri, costruita in alluminio, eccetera, eccetera. in pratica è lunga. 7 metri di stilo e 7 metri di radiali. C'ha 4 radiali. E ce ne sono tante, ce ne sono, che non costano molto e vanno bene. Ma non è come quella che presentano, cazzo, come si chiama, l'altra, no, la sedia di un lato, no, quella che ho comprato, cazzo, il coso, non è quella lì, è totalmente diversa, Hai capito? Anche questo, €74,99, come sempre questa senza radiati, è tipo quella... tipo quella di te voi si mette bella, però questa è un 4-9, cioè mezz'onda, là, come quella mia, costa €74 della Migra. E vabbè, comunque io scelgo quella lì, cazzo, ce la faccio a aprire l'asilo, quello tornato, ha comprato quello di muro, cazzo, è sceso in terra, no, non esiste, no? Cazzo. Di colore verde, si riconosce subito. Seia, dimmi la pari che non ti ho capito. È la migliore che c'è quella. Quindi, a un certo punto, io dirò quella, costa €92 costa. Cioè, c'è quello lì, cazzo, non che se la fanno pagare. Sì, io, sì. Sì, poi lo portare qua. C'è anche questo, sì, io informazione, no? Do quello. Ho capito. Adesso vedo di farmi la ordinaria, mi risponde. Arrivo a casa, prendo, me ne installo. E poi, vediamo come esce. Cioè, c'è bene, bene, se non mi... C'è il... come c'è? C'è il cassone della mondezza. Chi era parte che mi voleva? Buonasera, siamo al Super Shop. Da questa parte, come mi scusi? Benissimo. Yeah. Ok, perfetto, dai, ciao Natalino, ciao Antonio, ciao quel magone di Pompugno. Hai sentito com'è? Ho capito chi è. Super Topo. Super Topo, cosa è? Emanuele. Emanuele? Emanuele Ginco. Emanuele. Ah, ho capito. Ciao Emanuele, salutone, ben sentito. Ah, ciao Antonio, vi ascolto, dai, riprendete pure. Ciao Brigido! Ehi, biondo! Cazzo Brigido! Ehi, biondo! Sì, ciao, E beh, la carezza a posto, sì! Ehi, tutto a posto, da mettere a posto qua, Sì, sto usando un portatile dentro casa, pensavo che non mi ascoltavate. Ti ascolto! Andave! E beh, la carezza, l'hai venduto con la geccia, sì! Sì. Meglio così, era ora. Anche a me mi hanno fatto l'offerta, lo sai, mi è arrivato lì, il messaggio ieri mattina. Ma prepariamo anche un arrosto. E io l'ho dato perché non avevo soldi da spendere, capito? Esquisito. Se non l'avrei aggiustato ugualmente. Ah, non lo so, questo voleva darmi €400, poi non lo so io. Ho raccolto, cosa cazzo ne so io? Mi voleva dare per il coso, il 140, microfono amplificato, microfono normale, €400. E ho capito. E gli ho detto di no, gli ho detto, la verità. Ecco qua. Olvia. Gabriele, dica che cosa. Comunque, ma adesso c'hai la fotocigiama, c'hai quell'antenna là, c'hai quella, non non c'è la mantova adesso, quantomè. No, no, c'è la trentena, c'ho. E quindi 2 più 2 fanno 4, no? Quando l'antenna tu gli attacchi 800 watt e poi cominci il cazzo a averti segnare tac, tac, tac, tac, tac, tac, che ti sei battuto l'apparecchio bruciato, invece non sai invece che l'antenna, cazzo. Quando ho staccato, cazzo, le, come si chiama, le, il piede, cazzo, ho visto il cavo da uno, cazzo, ma stai scherzando, cazzo, la mantova era tuffa, cazzo, la mantova turbo, con un cavo da uno non è assolutamente vendibile, perché non è assolutamente vendibile, quindi ci vuole un cavo da 1.5 da 2, minimo, minimo, hai capito? Quindi io a un certo punto, guarda, pensavo che era difettoso il cazzo di cavo, invece il cazzo di cavo c'aveva un cazzo, cioè, hai capito? Perché spariva il segnale, riappariva, eccetera, eccetera, poi uscivo male, facevo schifo, eccetera, eccetera. Mica non stai uscendo, Antonè, sei tutto saturo, eccetera, eccetera, cazzo. Ogni giorno, tutti i giorni, la stessa passi per una settimana, mica ti dà fastidio, mica, da un certo punto. E quindi... perché a un certo punto non hai fatto segnare del tutto, sono battato 3 giorni di vento, quindi a un certo punto ho preso, ho smontato il cavo e c'era il cavo da uno, c'era installato nella mantova turbo, quindi non è una prassi normale, cioè che uno ti vende un'antenna 120 euro che costava allora col cavo da uno, se ci metti 900 euro, cioè 900 euro 900 watt, no? Adesso sto dicendo cazzate, più che altro non puoi piazzarmi un cavo del genere, se metti un cavo normale o metti un cavo rigido, il discorso è quello, in modo che resista, e invece no, hanno messo un cavo di cazzo e capita se sono fatti tutti i coglioni, tanto più va e chi non va non va, diceva quello. L'alluminio è a posto, c'è lo stilo, grazie a Dio, è nuovo nuovo, non c'ha niente, però il cavo da PL alla bobina, quello era fine, hai capito? Io mi sarei vergognato di averla piazzata la vetta. Se tu mi vendi una cosa, me la dai cazzo per 1000 watt, non me la dai per 500, hai capito? Non c'è bisogno di te truffare, le cose truffaldine, e prova a attaccare le 800 watt, no? manco un bello ricocca, a meno che non si scioglie le cose, il connettore, è diverso la storia, roba di capo, ti capisco la bobina nella bobina, e quando la sciogli quella? No, la bobina non si è sciolta, la bobina è tranquilla, hai capito? Se l'avevi installato il diametro della bobina che c'ha, l'energy e cose del genere all'ingresso del PL, stai tranquillo, alla mano non sarebbe successo niente, questo è poco ma sicuro. No, ti ho detto, io ho quel cavetto, lo sai come l'arrivo, se c'è il capo, io invece ho il capo, perché è stata modificata la mia, ho quel capo grosso, rigido, ma allora infatti chi tiene chi s'antenna, è canto di rubare un ricocchi, ma canto mai. Ma domani lei ci resiste fino a 500, ma il diametro che c'ha del rame è totalmente diverso dal diametro della mantova mia, lo sai? Se tu dovessi modificare come ti posso dire, la bobina della Mercury, la bobina, sarebbe, cazzo, con l'antenna sarebbe durata 50 anni, sarebbe durata, te lo dico io. Guarda qui, già da troppo. La mia c'ha il capo diverso, Roberto, è stata modificata, è stata. Ma chi su di va, te ne avvero però, 200 watt te li tiene come niente. Se non si sciolgono i connettori, l'antenna va. E come se va? Non li fa di nulla, manco un bello ricocca. No, il connettore va bene, hai capito? Maria! Niente, è quello. Ah, se io, cosa ti posso dire? Ti mando su Facebook, aspetta, te lo faccio vedere, guarda, le, così me lo vedi e sai cosa ti sto parlando in pratica. Allora, ho fatto la foto, ho fatto, a un certo punto, eccolo qua. Vediamo un po' se ti ho nelle... Se vediamo se ti ho su WhatsApp. Te lo mando. Su Facebook te lo mando. Adesso mi domanda, aggiungi a facciamelo pubblica. Eccolo qua, guardatelo adesso, sono pubblicato adesso. Sì, ma io sto parlando della mia antenna, sto parlando, ecco lo so, riesci a vedere. Fine mi, non è cavo grosso, è cavo fine. E questo schifo lo sai? Questo della Mantova Turbo, il cavo mi. Ma se ti vuoi comprare la Mantova Turbo, sai che cavo devi cambiare. Prima di installarlo, la smonti, cambi il PL, passi da uno all'altro, a un certo punto. Ma è lo schifo questa cosa. Non l'ho capito. Bello schifo! Lo so che è bello schifo, ho visto, che la metà è blu, l'altra metà è lame, quindi l'altra metà è dentro, a un certo punto, quindi adesso devo fare, se c'è pesca devo fare, a un certo punto. Che cosa là, rimetti quello rigido, ma là ci sono i rimetti, ci sono. No, meno male no, la so. Che vi ho fatto? Grazie a Dio, io li posso togliere quelli, non è quello il problema. Quindi, a a un certo punto e mettere il cavo da due. Certo, ma non si può, no? Cioè, mi dispiace, ma cioè, una mappa ma non può mettere questo schifo qua. Vabbè, piano piano adesso me lo faccio. Che non è possibile. Cioè, attaccare un lineare da 800 watt dopo due giorni, anzi tre, no, non due, quattro, cinque giorni se l'ho usato. Essere in queste condizioni, ma non è possibile, se è andato per 1000, l'antenna 1000, 1500 eccetera eccetera, sarebbe stato una cosa come si deve, no? A un certo punto, invece no, hai capito? Il discorso è quello lì, non è più una mantova, no, quello è un coso, un cesso più che altro. Adesso vediamo un pochettino, adesso stasera non voglio fare proprio niente perché c'è un freddo che mi si congelano le mani, cazzo non sono razzo, domani se scalda un pochettino stacco qualcosa lì e metto il cavo nuovo, metto quello grosso, dopodiché vediamo un pochettino cosa succede. La proviamo, andiamo a posto. A livello da fusaro, quel connettore lo togli via perché fa schifo, non vuole vitto, ha pigliato un bel disruginale, eccetera eccetera, quel piattello vuole di... non lo so, vorrebbe di passato la cosa, di messo tutto a posto. I radiali li prendono neanche da Bricome. Vorrebbe tutta bella, cioè quel cappetto gliel'avrei cambiato, gli avrei messo un filo di quelli di massa, di quelli di grosso, saldato bene, pulisci bene il saldatore, lo fai bello bello bello, lo sai come attacca? Poi gliela faccio bene, non ti preoccupare. L'avevo già fatto una volta quel lavoro lì, quindi figurati. Cos'è quanto mi è durata? 6 anni è durata, mi l'ho regalata io quell'antenna lì. È durata 6 anni, solo che chi ce l'aveva l'ha messa nel palo e gli è sceso il palo in terra e si è spaccata in due, hai capito? Il capo comunque è uno schifo, non è possibile una mantova che metta, cioè, una cosa del genere così, cioè, il capo deve essere bello, robusto. Ma perché anche la mia Ringo è il meno, non gli abbiamo messo quello grosso, chi sul rigido, col capo rotuneo, quello lì lo bruci. Anda pure di più, anda. Come cavo già lo sai, hai visto che è fino, quindi non è un cavo da un kilowatt questo, questo è poco ma sicuro. Io ne ho messo 800, figurati. Se ho messo 2000, a un certo punto già mi sei trovato tutto a fuoco, mi sei trovato. Quello rifatto bene, tutto. L'antenna poi esce anche più forte, non è come dicono, si stacca le cose, è proprio quel cavo che si rovina, si scivilleggia negli anni, c'è quello lì di difetto, però l'antenna non c'ha nulla, quello lì si è rifatto bene tutto, lui non lascia perdere, quello lì funziona alla grande poi. Vabbè, adesso vediamo un pochettino. A un certo punto sistemo il cavo, lo metto come si deve, bello grosso, dopodiché facciamo la coppa con un kilowatt e mezzo, vediamo come la mettiamo. Quindi quello deve essere un'antenna come si deve, non un'antenna di Bertola, hai capito come la vendo? Sarà l'unica antenna mantova turbo che resiste 2 kW, come si deve, no? a un certo punto. I radiali, vabbè, sono tranquilli, sono nuovi nuovi, quindi li rimetto tutti, e se ne manca uno vado e la brico me lo compro, li faccio fuori e sono a posto. Prendono le pacchette, Antonè, le fa misura, tra lo tagli e glielo ripiazzi. Però ti guarda, la prossima volta che corro, adesso non so se ne sono usciti tutti, mettilo, isolalo tutto, cioè tutto con coso, tutto con vulcanizzante, in modo che non entri a Eva, manco un'idea. No, acqua non è entrata, tranquillo, è tutto a posto all'interno, ho visto. Sotto vuole appena appena con la carta abrasiva, è a posto, quindi gli passo lo spray di quell'alluminio e sono a posto, mo le conduca, capito? E quindi sono a posto. Però all'interno dove vanno lasciate i radiali, quello lo lascio così com'è, non lo tocco quello, hai capito? Ma dopo quando ci sono tutti i radiali, ecco, non so come va freddo, nella 5 c'ha delle viti, c'ha, guarda, quello che gli ha buttato giù una persona, gli ha tirati, c'ha, ecco, le viti che non hanno preso né affiliazione né niente, perché sono state sigillate bene, sono state sigillate. Ti dico che hanno mollato il radiale alla prima proprio, non ha avuto nessun problema. È stata lì tutta l'antenna, adesso funziona alla grande. Certo, ho capito. Comunque sia, sopra a posto, dove c'erano i radiali, non c'è nessun pezzo di ossido, la verità, perché quando ho installato i radiali gli ho messo la vasellina, quindi non c'è ossido, hai capito? L'ossido c'era appena sotto, c'è appena, quindi a un certo punto sono qui, dammelo quello, sono stato fortunato, visto? Adesso mi interessa più che altro sistemare l'attacco dei PL, eccetera eccetera, la basetta, fare una bella pulita, dopodiché rimette di nuovo la vasellina e siamo a posto, l'antenna rimane come nuova, tale uguale, questo è poco ma sicuro. Guarda che funziona benissimo, funziona. Accendi la luce. È la bella antenna, la verità, la manca, ma il problema è che pesa, cazzo, pesa. Quindi a un certo punto, quando qualcuno arriva a una certa età, cioè finché è giovane nel discorso, ma quando sei passo i 60 anni, come cazzo fai a staccarne, cazzo? 3 kg e mezzo di alluminio, più il palo, magari il palo è un palo d'acqua, quante posso dire, 3 metri, 6 metri, quello che è. Hai visto che non ho buttato giù quello che c'è, ci vedo quelli da Abruzzi, assolutamente hanno buttato giù, solo questo l'avevo già tirato giù immediatamente, quindi, vabbè, già lo sai anche tu, il tipo dell'antenna è quello che è. Ciao, Natalia, ancora ci sei? Sì, sono qua. E avanti, c'era un po' di schifletta che c'era sotto. Cioè, se lo vedi ti muove male in capo, Natalia. Che cosa? Cioè, un filo vini, nella mantova di Pomponi, un filo vini, però. Cioè, ma come te è possibile. E cosa vuoi? Ma ho fatto un cesso di costruzione di casa. Per forza, se tu li pompi e vasi, dopo la rovini se c'è il filo così fine. Se non volessi più costruire la seconda. Se la deve modificare lui. Ma cavolo, ma non te la che ti danno per tutto di vate. Con uno schifo, cavolo, che insomma. Un amico mio addirittura si è fatto la resistenza, cioè l'induzione dell'antenna, tutta in capo di rin, in tubo di rame ce l'aveva fatta, ne aveva tolto il PL pure perché doveva pompare il vatto e allora era stata modificata la Mantova, capito? Se vuoi che pompi, che tenga dei vatti devi modificarla, così come te la vendono, se c'è il filo così fine non è regge il vatti, no? Sì, carità. Ecco perché ti stavo dicendo che la Venom non serve a niente, perché se tu guardi la carica che ha la Venom ti metti a ridere. Ma per carità. Vabbè, la mia è un po' così strutturalmente, però vabbè, non penso che inizia. Vabbè, io c'ho il modello vecchio, c'ho adesso spiazzata sul tetto, quello nuovo ne ho tolto perché era, non andava bene. Non penso che inizia, no, mi s'antenna, eppure è stata ribettata le cose. Perché c'era, originalmente c'erano le viti, allora cosa avevamo fatto? Avevamo pigliato e l'avevamo ribettata. Eppure a un biliardo l'avevo messo il capo grosso nella cosa. E quando lascia il vitezzo. E infatti, il cavolo, già l'ho visto già quel filo. Se filo normale, da uno quello. Allora si lanciamo di costruire la copia, cioè la cosa mia, allucinante. Lo sai, una così l'avevo modificata lo stesso anch'io a un amico, e l'avevo stata messa a posto, ma sono antenne difettose quelle. Devo dirti, figlio, le congratulazioni. Un filo da uno li hanno e a farvati voi bumpare un filo. Sono offerta per la comunità, insomma. Sai che la grazia di certe tante cose, non le ha di quelle cose, no? C'è il condensatore attaccato sotto, direttamente. Non le ha di quella roba, no? La Mantova il filo già ce l'ha, il mio mi ricordo che era più grosso, quello della Mantova che avevo io. Cazzo, che tu è capo da uno? Di filo elettrico, Se la c'ha un visto di bagno, lui l'ha attaccato. Cazzo, allucinante. Lì si è venduto grosso a me. Sono andato a cambiare la punta che ce l'ho di ricambio e mi si è troncata la vitega. Cazzo. Mi ha parito. Ma se vuoi la differenza, chi c'è di chi c'è un rigido me? Che è proprio che è grosso. Atari, se vuoi ti do la mia di punta, Gatta, io ce l'ho là, la mia non entra che è troppo grossa. Metti quella fine. Ma quella fine non ne ho io, qui è tutta roba grossa c'è. Ah, ora sei roba grossa, pazienza, cosa vuoi ti dica io? Se le gabbie ma non bene quelle. Ma poi la differenza, ora per la gabbia c'è la differenza, vedo un grosso. E ancora in terra ridendi, sa? E di chi sono rigido me, un capo? Sì, già l'ho visto. Io sono proprio un giguzzino, bombe del ramo dentro. Adesso mi tocca andare a comprarmi il saldatore, va a fanguarla. Non esce la punta, si è troncata la vita. Di scatola. Adesso guardo su internet se ci sono i saldatori così. Ma che saldatore? Quello. Sì. parlavo normale appena. Ma mi sembra che lì c'è il salatore, se non mi ricordo male. Avanti! Sì, ma saranno i cittadini. Cazzo, questo lo sai gli anni che ce l'avevo. C'ho anche la punta del ricambio, va a fare uguale. Mi sentite? Si è bruciato, figurati, quindi in pratica la base saldante a un certo punto, adesso vediamo un pochettino se c'è, me la prendo, se no se la piglia in culo. Cosa Antonio? Il saldatore, la base saldante da Lido. Sì, ma saranno quelle da 13, eh. Quelli meglio di niente, già, scusa. Per saltare va bene, no? Via. Cosa ti volevo dire? Mi serve una resistenza da 250 watt, 50 ohm, ma ce l'hai? Non ho capito, se c'ho una resistenza da 250 watt e 50 ohm. Sì. No, mi sembra che sì, non lo so, adesso devo controllare, perché? Perché mi serve, che mi devo fare un carico fittizio. Ah, oh, capito. 250 watt già va bene. Lo barbitizia non è pure in morale. Ho preso. Lo barbitizia. Per fargli credere che c'è l'antenna collegata, invece non ce n'è, hai capito perché mi serve? Per avere zero di stazionari. Cappa. Ma quanti vuoi fare un carico fittizio per misurare quanti fatti ci hanno un parecchio realmente? O cosa vuoi fare? Un carico fittizio per poter tararmi il osmetro, per esempio, aggiustare gli apparecchi senza avere l'antenna. I tecnici non ne usano, antennano, usano il carico fittizio, perché se no sono sballate le misure. Ecco, in teoria ci vorrebbe quello. No, in pratica ci vuole quello. Sono riuscito a comprendere il mio snormetro che funzionava benissimo. Vabbè, capo, ci si è finita. Io c'ho anche un computerino che ci misura l'antenna da capo a piedi. Capito? Senza attaccarla all'apparecchio, te la misura di brutto. Io ne avevo uno, un gatto del mono, un gatto l'abbia pagato, ma era buono, brutto di così, di strumento, chissà dove cavolo, ma c'è quanto misurava bene quello. Cazzo, non so neanche più dove andare a finire, c'ho sempre quell'Inter che c'ho me, come punto di riferimento, quello piccolino, te lo ricordi Natale? Io c'ho un Diamond qua, un SX200, funziona benissimo, ma c'ho il nano VNA per analizzare l'antenna proprio. Anche se carichi i vizzi, se sei vicino, arrivi un segnale, mi arrosa. Cosa? Se sei vicino, ti arriva il segnale. Un carico fittizio. Sì, una volta che te scendi in campo, non riusci a comprendere la rete, canta un segnale forte al monte, ed è una cosa quindi a funzione di cose, stava provando, stava aggiustando roba. Sì, un attimo che mi sposti. Su che andiamo, su. Ehi, Emanuele, avanti. Beh, anche tu. A un certo punto. A un certo punto non andrà più. Per carità. Beh, la sei come nata tu. Come si intende che ci siamo andati a travagliare, no? Che mi serve di nada. Se non vuoi curare a casa di un ricordo a poccio. Sono già rotto le palle. Ma anche non si sei già l'ultimo dell'anno? Ma lo so, se sono un alghero, se sono un assassino, non ne ho idea. Io sono un alghero di servizio. Ecco. non vuole scendere, a quanto ho capito non vuole scendere a fare il montaggio. Casino si sarà, sarà un bel casino di Agandera, che è già due. Ehi, già quelli grazie di voi. Se rompi, le rompi in valle. Ciucucciu. Ciao, avanti Ciucucciu. Ora mi metto in scatola. Io? No, la notte che devo andare a fare il servizio, che vedo che si rompe in valle. Ah, ok, pensavo a quello. Adesso ci ringrazia Manuele che perché non so, sai cosa è il bello se va tutto liscio che non succede niente, ma il brutto è quando comincia a Gianabbi si fa del vino amaro, mamma mia, ma ci ho preso abitudine anche tu, ho preso ormai l'abitudine non so perché era sempre un giramento di scatole vai. Ho fatto le manopaggi, ma sono i ragazzini, non altro che a lui, i ragazzini. Ma tu conosci, ma non so come, a rata di musica che sa cosa ne dice. Ti spezza le gambe, ti ma non mi ha visto sa cantare, ma non è andato in escito, mi dico. Ma tutti quanti lo si raccoglie, tutti quanti lo vuol dire. Io sono qua. Mi ascolti, sì. Sì, che ti ascolto, no, stai parlando con Manuele. Va bene. Aspetta, non ho capito niente. Piano. Ehi, Manuele, avanti, Antonio, ma non lo senti, Manuele? Penso di sì. Manuele, ci sei? Certo, penso di sì. Sicuramente se mi senti non mi metti di sopra, non ti metterò a parlare sopra. Vabbè, altro riprendo. Segnale 3, Manuele. Sì, c'è la tela sopra, tu. Tu, insomma, piano, già lo sai, Manuele. Arriva forte. A me che ce l'ha un tiro di schioppo. Ma poi anche Antonello c'ha questo cazzo di ripetitore, c'ha un po' di casino. Sì. Vabbè, no, oppure a paragonarsi da muni sopra o pensando al balcone, no? Cioè se la metti sul tetto cambia la giornata, no? Allora intendi, allora vuoi disegnare i posti. Sì, se la metto sopra il tetto io per dare abbattimenti che pigano tutti. È normale, ma come ti ribiglio io, li bigli pure dumme. Ma come cose di altezza sto dicendo io, Ma te si cosa, come li prendo io li prendi anche tu, però mio povero. E quello sicuramente. Guarda, ma tu ne hai un'idea cosa ti vuole dire sopra la ripiglia, 9,60 minimo. Ma le piglia abbattimento. Sì. Già tu ragazzo mi intendi. A bomba proprio, immaginiamo te. Logicamente sul tetto arriva tutta la potenza. Partella, no, guarda, io non ne vale più. Non vale più la pena, perché se volevo la mettevo su. Solo ci vogliono 40, solo di cavo, 44 metri di cavo, fate il conto. Beh, non è il problema. No, troppo cavo. Non ce n'è problema, vi voglio di là, non è un problema, di là. Centinaio di euro ci vogliono. Perché se volete metterla, posso mettere nel terrazzo, da una famiglia come io, che al quinto piano posso attaccare anche lì, ma non me la faccio un piano. No, la penso diversamente, io non è se volevo, io voglio. Siccome adesso è passata a me questa casa, io la voglio, non se volevo, per me non esiste più quella parola, voglio, capito? Nel senso, a me non me la fotte nulla, no? Prima ce la spendevo di soldi, per l'aria, il cavo, l'antenna, l'ha già preso un bel di là. Gli si buca l'antenna? Sì, ma non ne voglio mettere io, non mi interessa. Non mi interessa che magari poi dopo mi vengono l'antenna, ci sono c***o, sul mano, qui, là, capitai. No, non ne voglio l'occhio dei coglioni. Sono stata bene. se no